Libri dodicesimo e tredicesimo. Gran pena di sapere, si dà il cuor mio, Signore, colpito nella povertà di questa mia vita, dalle parole della tua santa scrittura. Ed è per questo che il più delle volte la povertà dell'intelletto umano è prodiga di parole, perché la ricerca è più loquace del ritrovamento, la richiesta più lunga dell'ottenimento, la mano che bussa più operosa di quella che riceve. Ma abbiamo la tua promessa. Chi potrà vanificarla? Se Dio è con noi, chi contro di noi? Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa viene aperto. Sono tue promesse, e chi può temere d'essere ingannato quando è la verità che promette? Confessa alla tua altezza la bassezza della mia lingua, che tu hai fatto cielo e terra, questo cielo che vedo e questa terra che calpesto e da cui viene questa terra che mi porta addosso. Tu li hai fatti. Ma dov'è, Signore, il cielo dei cieli di cui abbiamo ascoltato le parole del Salmo? Il cielo dei cieli è del Signore, ma la terra l'ha data ai figli degli uomini. Dov'è il cielo che non vediamo, a confronto del quale è terra tutto ciò che vediamo? E questa terra era invisibile e indistinta, un abisso d'impensabile profondità sul quale non c'era luce perché non c'era alcuna forma. È per questo che hai voluto fosse scritto che le tenebre erano sull'abisso. Che altro, cioè, se non assenza di luce? Dove infatti avrebbe potuto essere la luce essendoci se non sopra, così da sovrastare e illuminare? Dove dunque la luce ancora non c'era, cos'era la presenza delle tenebre se non assenza di luce? Sopra c'erano pertanto le tenebre, poiché sopra la luce non c'era, così come dove non c'è suono c'è silenzio. E che cos'è la presenza del silenzio se non assenza di suono? Non fossi tu, Signore, a insegnarla a quest'anima che ti confessa? Non fossi tu, Signore, a insegnarmi che prima che tu formassi e distinguessi quest'informe materia non c'era nulla, né colore, né figura, né corpo, né spirito? Non era tuttavia un nulla assoluto, un'essenza di forma piuttosto, priva di qualsiasi aspetto. Poste sul gradino più basso, terra e abisso sono meno appariscenti dei corpi superiori, tutti limpidi e sfolgoranti. Perché dunque non dovrei accettare che quella materia informe che avevi fatto priva di bellezza per ricavarne la bellezza dell'universo fosse indicata agli uomini nel modo più semplice, come terra invisibile e indistinta? E comunque fosse, da dove deriva il suo essere se non da te, da cui tutto deriva per quanto è? Ma quanto più una cosa ti è lontana, tanto più ti è dissimile, non nello spazio, intendo. Sei tu dunque, Signore, che non sei ora in un modo, ora in un altro, ma sempre te stesso, te stesso, te stesso, santo, santo, santo. Signore Dio, onnipotente, nel principio che da te proviene, nella tua sapienza che dalla tua sostanza è nata, sei tu che hai creato qualcosa dal nulla. Hai creato infatti cielo e terra, ma non dalla tua sostanza, poiché in tal caso sarebbero stati cosa uguale al tuo unigenito e dunque anche a te, ma non sarebbe stato affatto giusto che fosse uguale a te una cosa non uscita da te, ma al di fuori di te non vi era nulla da cui trarli. Dio, Trinità una e unità trina. E dunque dal nulla creasti cielo e terra, grande l'uno, piccola l'altra, il grande cielo e la piccola terra. C'eri tu, e di altro nulla da cui hai tratto cielo e terra. Due creature, l'una vicina a te, l'altra al nulla. L'una che sopra di sé ha te solo, l'altra che sotto di sé ha il nulla. Il cielo dei cieli, Signore, appartiene a te. Ma la terra che hai data ai tuoi figli, ai figli degli uomini, perché la vedessero e toccassero, non era quella ora che la vediamo e tocchiamo. Invisibile era, infatti, e indistinta. Un abisso era su cui la luce non splendeva, ovvero le tenebre erano sull'abisso, cioè ancor più fonde che dentro l'abisso. Poiché l'attuale abisso delle acque, diventate ormai visibili anche nelle profondità una sua parvenza di luce, percepibile comunque dai pesci e degli animali che strisciano sul fondo, quello invece tutto intero, non era pressoché nulla, poiché era ancora totalmente informe, ma era pur sempre tale da poter prendere forma. Tu, infatti, Signore, hai creato il mondo da una materia informe, un quasi nulla, che hai creato dal nulla per farne le grandi cose che suscitano meraviglie in noi, figli degli uomini, mirabile assai. E questo cielo corporeo che hai detto firmamento tra acqua e acqua nel secondo giorno dopo aver creato la luce. Sia fatto. E così fu fatto. Questo firmamento chiamasti cielo, ma il cielo di questa terra e di questo mare che creasti il terzo giorno, dando un aspetto visibile alla materia informe che avevi creato prima che fossero i giorni. Avevi infatti già creato un cielo, anche prima che fossero i giorni, ma era il cielo di questo cielo, poiché in principio avevi creato cielo e terra. Quanto alla terra da te creata, eri a materia informe, poiché era invisibile e indistinta, e tenebra sull'abisso. Da questa terra invisibile e indistinta, da questa assenza di forma, da questo pressoché nulla, avresti poi creato tutte le cose di cui questo mondo mutevole consiste e non consiste, nel quale si manifesta questa stessa mutevolezza che ci consente di percepire e misurare i tempi, già che il tempo diviene a causa del mutare delle cose, col variare e modificarsi delle apparenze, la cui materia è la terra invisibile, di cui si è detto. Per questo lo Spirito, maestro del tuo servo, quando ricorda che in principio hai creato cielo e terra, non parla di tempi, tace dei giorni. E questo perché il cielo del cielo che hai creato in principio è una sorta di creatura intelligente, seppur in nessun modo a te coeterna, o Trinità, eppure partecipe della tua eternità, perché grazie alla dolcezza della tua beatissima contemplazione frena non poco la sua mutevolezza, aderendo a te senza alcuna caduta da quando fu creata, si sottrae a ogni mutevole successione dei tempi. Quanto poi a questa realtà informe, questa terra invisibile indistinta, neppure essa fu inclusa nel novero dei giorni, dove infatti non c'è alcuna figura, né ordine, né qualcosa che viene che passa, e dove ciò non diviene, non esistono neppure né giorni, né successione di spazi e di tempo. Ciò considerato, per quanto me lo consenti, Dio mio, e mi provichi a bussare, apri il mio bussare, trovo due cose che hai creato fuori del tempo, senza che l'uno l'altra ti sia coeterna. L'una formata in modo che, senza la contemplazione, le difettasse mai, senza che il cambiamento la interrompesse mai, immutata, benché sia mutevole, gode eternamente della tua eternità e della tua immutabilità. L'altra, informe a tal punto da non poter mutare da una forma a un'altra, sia di moto che di quiete, né subire il dominio del tempo. Questa seconda non la lasciasti però senza forma, poiché prima di tutti i giorni, in principio, hai creato il cielo e la terra. Ma la terra era invisibile e indistinta, e le tenebre sull'abisso. Parole queste che suggeriscono l'idea dell'informe, poiché quanti non riescono a concepire come una totale assenza di forma non significhi necessariamente il nulla assoluto, possano gradatamente comprendere donde dall'informe sarebbero poi nati un altro cielo, una terra visibile e ordinata, e la bellezza dell'acqua, e ogni altra cosa che si dice sia stata creata giorno dopo giorno nella costituzione di questo mondo. Intanto io questo capisco, mio Dio, quando odo la tua scrittura dire: in principio Dio fece il cielo e terra, ma la terra era invisibile e indistinta, e le tenebre erano sull'abisso, senza precisare in che giorno li creasti. Intanto io questo capisco, che si tratta del cielo, cioè intellettuale, dove all'intelletto è dato di conoscere tutto simultaneamente, non in parte, non in enigma, non come in uno specchio, ma del tutto, apertamente, faccia a faccia, e conoscere non ora questo, ora quello, ma, come si è detto, tutti insieme, senza avvicendamento di tempo, è che si tratta della terra invisibile e indistinta, non sottoposta ad alcuna successione di tempi che sola comporta ora questo, ora quello, poiché dove non c'è forma non c'è neppure questo o quello. È di questi due, l'uno formato fin dall'inizio, l'altro del tutto informe, cielo il primo, ma cielo del cielo, terra il secondo, ma terra invisibile e indistinta, di questi due intanto capisco che la tua scrittura dice senza indicazioni di giorni? In principio Dio fece cielo e terra. È vero che subito aggiunge di quale terra si tratti. E poiché è detto che nel secondo giorno fu creato il firmamento che fu chiamato cielo, lascia capire di quale cielo si sia parlato in precedenza, senza indicazione di giorno. Mirabile profondità delle tue parole. Ecco, davanti a noi la loro superficie basta a incantarci come fanciulli. Eppure mirabile è la loro profondità, mio Dio, mirabile davvero. Un sacro terrore ci prende a gettarvi lo sguardo, terrore di rispetto e tremito d'amore. Anche se prima della sapienza non c'è traccia di tempo, poiché precorre la creazione stessa del tempo, essendo stata creata prima di ogni altra cosa, prima di lei c'è tuttavia l'eternità del Creatore, al quale deve la sua origine, seppure non nel tempo, poiché il tempo ancora non esisteva, bensì in quanto è stata creata. Dunque procede grazie a te, Dio nostro, ed è cosa del tutto diversa da te, che sei sempre lo stesso, sebbene non ci sia dato di trovare il tempo non solo prima di lei, ma neppure in lei, poiché è capace di contemplare il tuo volto incessantemente, senza mai staccarsene, è per questo che non subisce alcuna mutazione. Eppure ha in sé almeno la possibilità di mutare, e diverrebbe tenebre e gelo se il grande amore che a te la lega non la facesse ardere e sfolgorare di te come un eterno meriggio. O dimora radiosa e bella, amai la tua bellezza e la sede della gloria del mio Signore, tuo artefice e possessore. A te sospiri il mio peregrinare e chiedo al tuo Creatore di possedere me in te, poiché anche me ha creato. Errai come pecora smarrita, ma sulle spalle del mio pastore, tuo Creatore, spero di essere riportato a te. Voglio discutere davanti a te, mio Dio, solo con chi accetta come vero tutto ciò che la tua verità non mi tace dentro, nella mia mente. Quanti invece lo negano che abbaiano, finché vogliono, fino a stordirsi, cercherò di convincerli a calmarsi e a spalancare le porte alla tua parola. E se rifiuteranno, e se mi respingeranno, ti prego, Dio mio, non privarmi della tua parola. Parla nel mio cuore veracemente. Solo tu sai parlare così. E io li lascerò fuori, a soffiare nella polvere e a gettarsi la terra negli occhi, ed entrerò nella mia stanza segreta e ti canterò canti d'amore, gemendo gemiti inenarrabili in questo mio peregrinare, e ricordando Gerusalemme, col cuore a lei tutto proteso in alto. Gerusalemme, patria mia, Gerusalemme, madre mia, e te, suo re e illuminatore, padre, tutore, marito. Udite e considerate tutte queste opinioni, non voglio far questioni di parole, che non serve infatti a nulla se non a turbare gli ascoltatori. Per edificarli invece è buona la legge se legittimamente usata, suo fine essendo la carità da cuore puro e da coscienza buona e da fede non simulata. E ben sa il Maestro nostro i due precetti in cui ha riassunto l'intera legge e i profeti. E se io ne faccio ardentemente professione, Dio mio, luce dei miei occhi nell'oscurità, qual danno può venirmene dal momento che queste due espressioni possono essere interpretate in modo diverso e restare comunque vere? Che danno può venirmene, ripeto, se do un'interpretazione diversa da quella che un altro crede che fosse quella di chi ha scritto? Noi tutti che leggiamo ci sforziamo di penetrare e cogliere l'intenzione di colui che leggiamo. E se crediamo che sia veritiero, ci guardiamo bene dal sospettare che gli abbia detto qualcosa che noi sappiamo o crediamo falso. Poiché dunque ciascuno si sforza di cogliere nelle sacre scritture il pensiero dell'autore, che male può esservi nello scoprirvi un'intenzione che tu, luce d'ogni mente veritiera, mostri essere vera, quand'anche non ha inteso così l'autore, che pure ha inteso il vero, anche se non coincide con questo. Udite ed esaminate queste interpretazioni secondo la capacità della mia debolezza, vedo che possono sorgere due tipi di dissenso sopra un messaggio riferito mediante segni da messaggeri degni di fede. L'uno sulla verità dei fatti, l'altro sull'intenzione del messaggero. Una cosa infatti è cercare la verità sul modo della creazione, altra invece che cosa Mosè egregio servitore della tua fede, volesse far intendere a chi legge o ascolta. Riguardo al primo tipo di dissenso, lungi da quanti ritengono di conoscere ciò che è falso. Così, riguardo al secondo, lungi da me quanti ritengono che Mosè abbia detto il falso. Voglio invece in te, Signore, unirmi e in te con essi gioire, a quanti si nutrono della tua verità nella pienezza della carità, per accostarci insieme alle parole del tuo libro e cercare in esse la tua volontà attraverso la volontà del tuo servo, per la cui penna ce ne hai fatto dono. Ma chi di noi ha scoperto questa volontà fra tante verità che si presentano a quanti le cercano, in quelle parole interpretate, ora in un senso, ora in un altro, di modo che possa affermare che proprio quella era l'intenzione di Mosè e che proprio così voleva che fosse interpretato il suo racconto, con la stessa sicurezza con cui afferma che il racconto è vero, non importa fosse quella la vera intenzione di Mosè o altra. Ecco invece, mio Dio, io tuo servo, che ti ho promesso in questo libro il sacrificio della mia confessione, ecco io stesso, mentre con piena certezza dico che hai fatto del tuo verbo immutabile tutte le cose visibili e invisibili, dico forse con altrettanta sicurezza che proprio questo e non altro abbia inteso Mosè scrivendo: in principio Dio fece il cielo e la terra, già che non vedo nella sua mente con la stessa certezza con cui vedo nella tua verità che questo realmente intendesse quando così scriveva. Potei infatti pensare all'inizio stesso della creazione quando diceva in principio. Poté anche volere che cielo e terra significassero qui non la natura, la spirituale e la corporea, già formata e conclusa, bensì l'una e l'altra, appena bozzata e ancora senza forma. Vedo che si sarebbe potuto dire l'una cosa e l'altra, con pari verità, ma non veda quale delle due pensasse, esprimendosi in questo modo, sebbene non dubiti che così scrivendo quel grand'uomo, sia che pensasse nella sua mente a una di queste due o a qualche altra, da me non segnalata, abbia visto la verità e adeguatamente l'abbia espressa. Nessuno mi infastidisca dicendomi: Mosè non intendeva quello che dici tu, ma quello che dico io. Tremendi, Signore, sono perciò i tuoi giudizi, poiché la tua verità non è mia né di questo o di quell'altro, ma di tutti noi, che chiami in massa a parteciparne, terribilmente ammonendoci di non considerarla cosa privata, se non vogliamo esserne privati. Chiunque infatti rivendica come proprio ciò che tu metti a disposizione di tutti perché ne godono e vuole come suo ciò che è di tutti, è respinto da ciò che è di tutti a ciò che è suo, cioè dalla verità alla menzogna. Chi infatti dice una menzogna, dice del suo. Come una fonte in un luogo angusto e più abbondante, dividendosi in più rivi, dispensa il suo flutto in spazi più ampi di quelli bagnati da uno qualsiasi dei rivi che ne derivano, diffondendosi in molti luoghi, così il racconto del tuo dispensatore, di cui si sarebbero giovati molti commentatori, in angusto giro di parole fa sorgere fiotti di cristallina verità, da cui ciascuno, per quanto può, tragga una sua propria accessibile verità, chi questa chi un'altra, sviluppandole in più lunghe sinuosità di parole. Alcuni, infatti, quando leggono o sentono quelle parole, pensano a Dio come a un uomo o a una potenza dotata di mano enorme, che, con decisione nuova e repentina, ha creato fuori di sé e quasi a distanza tra di loro il cielo e la terra, due grandi corpi, l'uno sopra, l'altro sotto, contenenti tutte le cose. E quando sentono le parole «disse Dio, sia fatto ciò, e ciò fu fatto», pensano a parole che cominciano e finiscono, risuonano nel tempo e passano. E quando sono passate, subito esiste ciò che hanno ordinato di esistere. E anche qualsiasi altra loro interpretazione nasce dalla medesima familiarità con i sensi carnali. In questi, che sono ancora come dei bambini allo stato sensitivo, mentre la loro debolezza si lascia portare da questa elementarissima semplicità di linguaggio come da grembo materno, in questi cresce sana la fede che fa loro sapere e credere con certezza che Dio ha fatto tutte le nature che il loro occhio vede tutto intorno in mirabile varietà. Ma se qualcuno di costoro, disprezzando questa semplicità di linguaggio, si avventura con la sua arrogante debolezza fuori dalla culla in cui è nutrito, ahimè, cadrà miseramente. E Signore Dio abbi pietà, affinché l'implume pulcino non sia calpestato dai passanti, e manda il tuo angelo a riporlo nel nido, dove viva finché non voli. Altri invece, per i quali queste parole non sono più nido, ma ombroso frutteto, vi scorgono i frutti nascosti e svolazzano festanti e cinguettano nel cercarli e li colgono. Vedono infatti, a leggere o sentire queste tue parole, che tutti i tempi, passati e futuri, sono sovrastati, Dio eterno, da questa tua immutabile permanenza, e che non esiste creatura temporale che tu non abbia creato, e che la tua volontà, che è tutt'uno con te, ha creato ogni cosa, non traendo da te una tua somiglianza come forma di tutte le cose, bensì dal nulla una informe dissomiglianza che potesse essere formata grazie alla tua somiglianza, ritornando sollecitamente in te, l'uno, nella misura predisposta e concessa a ciascun essere secondo la sua specie, e tutte le cose divenissero buone assai, sia che rimanessero accanto a te, sia che via via se ne allontanassero sempre più del tempo e nello spazio, producendo, subendo meravigliosi mutamenti. Il Dio nostro abbia pietà di noi e ci induca a far uso della legge legittima, del fine precetto, la pura carità. Se perciò qualcuno mi chiede quale sia stato tra questi il pensiero di Mosè, tuo servo, non posso rispondere a tono con queste mie confessioni. Se non te lo confesse, perché non lo so. So tuttavia che quelle opinioni sono vere. Quanti, tuttavia, fanciulli di buona speranza non si lasciano spaventare da queste parole del tuo libro, così alte nella loro umiltà, così brevi nella loro ricchezza, e noi tutti che vediamo e diciamo su quel passo cose vere, amiamoci gli uni gli altri e amiamo del pari te, Dio nostro, fonte di verità, e rendiamo omaggio a quel tuo servo, dispensatore di questa scrittura, colmo del tuo spirito, così da credere che nello scrivere dietro tua rivelazione queste parole, egli guardasse fisso a ciò che in esse maggiormente risplende per luce di verità e per messe di utilità. Ma tu e noi, Signore, svela quello qualsiasi altro vero ti piaccia, affinché sia tu che ci dischiuda il medesimo senso rivelato a quel tuo uomo, sia che in occasione delle stesse parole tu ce ne dischiudi un altro, sii tu a nutrirci, non l'errore a illuderci. Ecco, Signore mio Dio, quante parole ho scritto su così poche parole. Di grazia, quante parole. Con questo ritmo come potranno le mie forze, come potrà il tempo bastare per tutti i tuoi libri? Concedimi pertanto di restringere in breve le mie confessioni, scegliendo una sola interpretazione da te ispirata, vera, certa e buona tra le molte che si possono presentare, lì dove molte sono ugualmente possibili, con questa fiducia nella mia confessione, che se avrò esposto il pensiero del tuo servo, avrò fatto bene e correttamente. Se invece non ci sarò riuscito, che io possa almeno dire ciò che la tua verità volle dirmi attraverso le parole di lui, al quale pure disse ciò che volle. Io invoco te, mio Dio, mia misericordia, che mi hai fatto e non hai dimenticato chi ti ha dimenticato. Io invoco te nella mia anima che tu prepari a riceverti col desiderio che li hai ispirato. Non abbandonare adesso chi ti invoca. Tu che mi hai prevenuto prima che ti invocassi e mi hai incalzato infittendo i tuoi richiami affinché ti udissi di lontano e mi voltassi e invocassi te che mi chiamavi. Tu infatti, Signore, hai cancellato tutti i miei mali e tutte le mie colpe per non retribuirmi secondo il merito delle mie mani con le quali ti avevo tradito. E hai prevenuto tutto quanto di buono meritato per retribuirmi secondo il merito delle tue mani con le quali mi hai creato. Poiché prima che io fossi, tu eri, mentre io non ero perché tu mi concedessi di essere. E tuttavia, ecco che sono grazie alla tua bontà, che ha prevenuto tutto ciò che mi hai dato di essere e da cui mi hai fatto essere. Tu infatti non avevi bisogno di me, né io sono tale bene che possa giovare a te, mio Signore, mio Dio, né tale che ti possa servire quasi in modo da alleviarti le fatiche dell'agire, né tale che la tua potenza sia diminuita dalla mancanza del mio ossequio, o che il mio culto per te sia come il culto per la terra, per cui senza di esso rimarresti incolto, ma al contrario, possa io essere tale da servirti, prestarti il mio culto e ricevere da te la mia felicità, dalla quale mi deriva d'essere capace di felicità. È dalla pienezza della tua bontà che la tua creatura ha avuto l'esistenza, affinché un bene a te del tutto inutile e da te nato, a te non uguale in quanto ha potuto nascere da te, non mancasse di essere. Quale merito ebbero infatti ai tuoi occhi il cielo e la terra che tu hai creato in principio? Lo dicono, quale merito ebbero ai tuoi occhi la natura spirituale e la natura corporea che tu hai creato nella tua sapienza? Quali meriti aveva la materia corporea per esistere, sia pur invisibile e indistinta, dal momento che non sarebbe stata neppure questo se tu non l'avessi fatta? Non essendo, non poteva meritare di essere. O quali meriti aveva nei tuoi confronti la creatura spirituale appena abbozzata, fluttuante, simile all'abisso, diversa da te, se questo stesso Verbo non l'avesse fatta rivolgere a chi l'aveva creata e da lui illuminata non fosse diventata luce, se non uguale tuttavia conforme alla forma a te uguale? Come infatti per un corpo essere non equivale a essere bello, altrimenti non potrebbe essere brutto, così anche per uno spirito creato vivere non equivale a vivere sapientemente, altrimenti sarebbe indefettibile nella sua sapienza. Ma un bene per lui essere sempre a te unito, affinché la luce che ha conquistato rivolgendosi a te non la perda, distogliendosi da te, e non ripiombi in una vita simile all'abisso di tenebre. E anche noi, creature spirituali quanto all'anima, distolti da te nostra luce, fummo un tempo tenebre in quella vita, e tuttora peniamo in ciò che resta della nostra oscurità, fino a che non saremo tua giustizia nel tuo unico Figlio, come monti di Dio. Fummo infatti tua condanna come profondo abisso. È caduto l'angelo, è caduta l'anima dell'uomo, e hanno disvelato in quale abisso di profonda tenebra giacerebbe l'intera creazione spirituale, se tu non avessi detto fin dall'inizio: sia fatta la luce, e la luce non fosse stata fatta, se non avesse aderito a te con la sua obbedienza ogni intelligenza della tua città celeste e non riposasse nel tuo spirito. Altrimenti lo stesso cielo del cielo non sarebbe che abisso di tenebra in se stesso. Ora invece la luce è nel Signore. Anche nella miserabile inquietudine degli spiriti decaduti, che mostrano le loro tenebre private della veste della tua luce, ampiamente chiarisci quanto grande tu abbia fatto la creatura razionale, poiché nulla che non sia tu stesso le basta per la sua pace felice. Tu infatti, Dio nostro, illuminerai le nostre tenebre. Da te viene la nostra veste di luce e le nostre tenebre saranno come il sole a mezzogiorno. Dammi te stesso, mio Dio, e restituisciti a me. Io ti amo e se poco posso amarti più forte. Non posso misurare per saperlo quanto amore mi manchi, a quanto basta far sì che la mia vita si getti tra le tue braccia e non se ne distacchi finché non sia scomparsa nel segreto del tuo volto. Questo solo io so, che tutto è male per me all'infuori di te, non solo fuori di me, ma anche in me stesso, e che ogni mia ricchezza che non sia il mio Dio è povertà. Lo spirito tuo buono solleva la nostra bassezza dalle porte della morte. Nella volontà buona è per noi la pace. Ogni corpo col suo peso tende verso il luogo che gli è proprio. Un peso però non tende solo verso il basso, ma al luogo che gli è proprio. Il fuoco tende verso l'alto, la pietra verso il basso. Sono spinti dal loro peso e cercano il luogo che gli è proprio. L'olio versato sotto l'acqua riemerge sull'acqua. L'acqua versata sull'olio si immerge sotto l'olio. Sono spinti dal loro peso e cercano il luogo che gli è proprio. Il mio peso è il mio amore. È lui che mi porta dovunque vado. Infiammati dal tuo dono siamo portati verso l'alto, bruciamo e andiamo, saliamo le salite del cuore e cantiamo un cantico di ascensione. Del tuo fuoco, del tuo buon fuoco, bruciamo e andiamo, poiché saliamo alla pace di Gerusalemme, poiché ho gioito tra coloro che mi hanno detto: andremo nella casa del Signore. Là ci collocherà la volontà buona e non vorremo nient'altro che rimanere colà in eterno. E anch'io, Dio, anch'io dico: mio Dio, dove sei? Ecco dove sei. Respiri in te appena quando è fondo su di me l'anima mia in un grido d'esultanza e di lode, vero canto di festa. Eppure essa è ancora triste, perché ricade, diventa abisso, o meglio si sente ancora abisso. Le dice la mia fede che hai acceso nella notte a illuminare i miei passi. Perché sei triste, anima mia? Perché mi turbi? Spera nel Signore. La sua parola è lucerna ai tuoi passi. Spera e persevera finché sia passata la notte, madre degli empi, finché sia passata l'ira del Signore, di cui fummo figli pure noi, un tempo tenebre, di cui portiamo ancora dei residui nel corpo morto a causa del peccato, finché la brezza del giorno non dissiperà le ombre. Spero nel Signore. Al primo mattino m'alzerò e contemplerò, sempre confesserò le sue lodi. Al primo mattino m'alzerò e vedrò la salvezza del mio volto. Il mio Dio che vivificherà anche i nostri corpi mortali grazie allo Spirito che abita in noi, poiché si porterà misericordiosamente sopra i flutti tenebrosi della nostra interiorità. Da Lui, in questo nostro esilio, ricevemmo il pegno di essere già luce, salvati mentre ancora speriamo, e fatti figli della luce e figli del giorno, non figli della notte e delle tenebre, quale pure siamo stati. Ma che cosa abbiamo noi che non abbiamo ricevuto da Te? Fatti vasi d'onore dalla stessa materia da cui si fanno anche i vasi di disprezzo. E chi se non Tu, Dio nostro, ci hai creato un firmamento di autorità sopra di noi nella Tua divina scrittura? Il cielo sarà riavvolto come un libro, mentre adesso è steso sopra di noi come una pelle. Fa, Signore, che vediamo i cieli, opera delle Tue dita. Dissipa dai nostri occhi le nubi con cui li hai velati. Ivi è la Tua testimonianza che dà la sapienza ai piccoli. Rendi piena la Tua gloria, Dio mio, con la bocca degli infanti e dei lattanti. Non conosciamo infatti altri libri che annientino così bene la superbia, che annientino così bene il nemico, il difensore che si oppone alla riconciliazione con Te, difendendo i suoi peccati. No, non conosco, Signore, altro linguaggio, tanto casto, che così mi inducesse alla confessione e a piegare la mia cervice al Tuo giogo e a invitarmi per Tua grazia al Tuo servizio. Fa, Padre buono, che lo capisca. Concedimelo, poiché mi sono sottomesso e per i sottomessi hai stabilito quelle parole. Così, Signore, così Ti prego, nasca dalla terra la verità e la giustizia del cielo abbassi il suo sguardo e siano fatti illuminare nel firmamento. Spezziamo a chi ha fame il nostro pane e il povero senza tetto facciamolo entrare nella nostra casa. Vestiamo il nudo e non disprezziamo i familiari del nostro stesso seme. E alla nascita di tali frutti dalla terra, vedi che bene, ed erompa mattutina la nostra luce. E da questa messa inferiore dell'azione, raggiungendo nelle delizie della contemplazione la superiore parola di vita, possiamo noi apparire come lumi nel mondo, incastonati nel firmamento della Tua scrittura. È lì, infatti, che disputando ci insegna a distinguere tra cose intelligibili e cose sensibili, come tra giorno e notte, ovvero tra le anime dedite alla realtà intelligibili e quelle dedite alle sensibili. In tal modo non sei più solo a distinguere nel segreto del tuo giudizio, come prima che fosse il firmamento tra luce e tenebre, ma anche i tuoi spirituali, collocati e distinti in quello stesso firmamento, in virtù della tua grazia, risplendono sulla terra e distinguono il giorno e la notte, indicando il significato dei tempi, che quelli vecchi sono passati ed ecco sono sopraggiunti quelli nuovi. E la nostra salvezza è più vicina di quanto non credessimo, che la notte trascorsa il giorno sia avvicinato, che tu coroni l'anno con la tua benedizione mandando gli operai alla tua messe che altri faticarono a seminare e mandando anche ad altre seminagioni la cui messe si avrà solo alla fine. Così esaudisci i voti di chi brama e benedici gli anni del giusto. Tu invece sei sempre lo stesso e nei tuoi anni che non passano prepari il granaio per quelli che passano. Secondo il tuo eterno disegno dispensi alla terra i beni celesti, ciascuno a suo tempo. Infatti ad alcuni è data a opera dello Spirito la parola della sapienza, come un lume maggiore. Ad altri invece a opera del medesimo Spirito è data la parola della scienza, come un lume minore. ad altri la fede, ad altri il dono di guarire, ad altri di operare prodigi, ad altri la profezia, ad altri il discernimento degli spiriti, ad altri la varietà delle lingue. E tutti questi doni sono come le stelle. Tutti infatti sono opera di un solo e medesimo spirito che li distribuisce a ciascuno come gli piace e fa apparire gli astri che mai si manifestano per nostro vantaggio. E l'uomo animale che come un pargolo di Cristo beve latte finché non si robustisca, tanto da ricevere un cibo solido e una vista in grado di sostenere i raggi del sole, non si trovi in una notte abbandonata, ma si accontenti della luce della luna e delle stelle. Ma prima lavatevi, purificatevi, detergete la malvagità dal vostro animo, dalla vista dei miei occhi. Imparate a fargli bene, rendete giustizia all'orfano e proteggete la vedova, affinché la terra germini erba da pascolo e alberi da frutta. E venite, discutiamo, dice il Signore, affinché siano fatti luminari nel firmamento del cielo e illuminino la terra. Il ricco chiedeva al buon maestro cosa dovesse fare per ottenere la vita eterna. Gli risponde il buon maestro, che gli credeva un uomo, niente di più, invece è buono in quanto è Dio. Gli risponde che se vuol giungere alla vita deve rispettare i comandamenti, tenersi lontano dalle acque amare, dalla malizia e dalla nequizia, non uccidere, non fornicare, non rubare, non dire falsa testimonianza, finché appaia la terra arida e germini il rispetto della madre e del padre e l'amore del prossimo. Tutto questo l'ho fatto, replicò. Perché allora tante spine, se la terra è fertile? Va, estirpi folti pruneti dell'avidità, vendi ciò che possiedi, riempiti di messi dando ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E segui il Signore se vuoi essere perfetto, accompagnandoti a coloro fra cui predica la sapienza colui che sa cosa segnare al giorno e alla notte, affinché anche tu lo sappia, affinché anche per te siano fatti illuminari nel firmamento del cielo. Ciò non sarà, ciò che non sarà, se non sarà là il tuo cuore, e che pure non sarà, se non sarà là il tuo tesoro, come il buon maestro ti ha spiegato. Ma la terra sterile fu piena di tristezza e le spine soffocarono la parola. Ma voi, stirpe eletta, debolezza del mondo, voi che avete rinunziato a tutto per seguire il Signore, andategli dietro e confondete i forti. Andategli dietro, piedi belli, splendete nel firmamento affinché i cieli narrino la sua gloria, separando la luce dei perfetti, ma non ancora pari agli angeli, dalle tenebre dei piccoli, ma non disperati. Splendete su tutta la terra, e il giorno fulgido di sole e fonda il giorno la parola della sapienza, e la notte, rilucente di luna, annunzia la notte la parola della scienza. La luna e le stelle risplendono alla notte, ma la notte non le oscura, poiché esse le illuminano nella misura giusta per lei. Ed ecco come se Dio avesse detto: siano fatti illuminare nel firmamento del cielo. Venne improvvisamente dal cielo un fragore come di vento che soffi impetuoso, e apparvero lingue come di fuoco che si divisero e si posarono sopra ciascuno di loro, e furono fatti illuminare nel firmamento del cielo che possedevano la parola della vita. Correte dunque, fuochi santi, fuochi belli, siete infatti la luce del mondo, correte e manifestatevi a tutte le genti. Concepisca anche il mare, partorisca le vostre opere, e le acque producono rettili dall'anima viva. Separando ciò che è prezioso da ciò che è vile, siete diventati la bocca di Dio, di cui si serve dicendo: le acque producono non un'anima viva che è prodotta dalla terra, bensì rettili dall'anima viva e volatili che volino sopra la terra. Strisciarono infatti i tuoi sacramenti, Dio, per opera dei tuoi santi, attraverso i flutti delle tentazioni di questo mondo, per impregnare in tuo nome le genti pagane con l'acqua del battesimo. E intanto si compirono mirabili grandiosità, simili a immensi cetacei, e le voci dei tuoi messaggeri volarono sopra la terra in prossimità del firmamento del tuo libro, che si erano imposti come fonte d'autorità per volare sotto di esso, dovunque andassero. Non ci sono infatti linguaggi o discorsi in cui non si colga il loro suono, quando su tutta la terra si è sparso il loro suono e fino ai confini della terra le loro parole, già che tu, Signore, le hai moltiplicate con la tua benedizione. Ecco perché, grazie alla tua parola, non la profondità del mare, ma la terra separata dall'amarezza delle acque, fece scaturire non rettili dall'anima viva e volatili, ma l'anima vivente. Essa non ha più bisogno del battesimo, di cui hanno bisogno i gentili, come lei stessa ne aveva quando era coperta dalle acque. Operino dunque ormai sulla terra i tuoi ministri, non come tra le acque dell'incredulità, predicando e parlando attraverso miracoli e sacramenti e formule mistiche a cui si affissa l'ignoranza madre della meraviglia, provocata dal timore di segni misteriosi. Operino invece anche come su una terra arida separata dai gorghi dell'abisso, e siano modelli ai fedeli, vivendo in mezzo a loro e incitandoli a imitarli. Così infatti non ascoltano soltanto per ascoltare, ma anche per operare. Cercate Dio e la vostra anima vivrà, affinché la terra produca l'anima vivente. Non conformatevi a questo mondo, astenetevi da esso. L'anima vive evitando cose che desiderando muore. Astenetevi dalla ferina violenza della superbia, dall'inerte voluttà della lussuria e dal fallace nome della scienza, affinché le fiere divengano mansuete, gli armenti docili, i serpenti innocui. Sono queste espressioni allegoriche dei moti dell'anima, ma il fasto della vanità, il piacere della libidine, il veleno della curiosità sono moti di un'anima morta, che però non muore in modo tale da perdere ogni suo moto, poiché muore allontanandosi dalla fonte della vita ed è accolta dal mondo che passa e a esso si conforma. Ma la tua parola, Dio, è fonte di vita eterna e non passa. E per questo la tua parola impedisce quel distacco quando ci viene detto: non conformatevi a questo mondo, affinché la terra produca dalla sorgente della vita un'anima vivente, un'anima che nella tua parola e per mezzo dei suoi evangelisti vive nella continenza, imitando gli imitatori del tuo Cristo. Siate detto come me, poiché anch'io sono come voi. Così nell'anima vivente anche le fiere diverranno buone per la mansuetudine dell'agire. Hai infatti ordinato: compi le tue opere in mansuetudine e sarai amato da tutti. E diverranno buoni gli armenti, non sovrabbondanti se mangeranno, né affamati se non mangeranno. E buoni serpenti, non più pericolosi per far male, ma abili per difendersi. Ed esploreranno la natura temporale solo quanto basta a scorgere l'eternità, compresa attraverso il creato. Questi animali servono infatti alla ragione. Quando impediti nel loro cammino di morte, vivono e sono buoni. Ecco dunque, Signore, Dio nostro e nostro Creatore, quando le nostre passioni che ci facevano morire di vita cattiva si saranno tenute lontane dall'amore del mondo e l'anima comincerà a vivere di vita buona e si sarà compiuta la parola che dicesti per bocca dell'Apostolo: non conformatevi a questo mondo. Essa adempirà anche l'altra, ma riformatevi rinnovando il vostro cuore, non già secondo il genere, come se dovessimo imitare il nostro prossimo che ci ha preceduto o vivere fondandoci sull'autorità di un uomo migliore. Non dicesti infatti: sia fatto l'uomo secondo il suo genere, bensì facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, affinché proviamo in noi stessi quale sia la tua volontà. Per questo quel celebre dispensatore della tua parola, generando figli per mezzo del Vangelo, per non avere solo piccoli da lattare e riscaldare al petto come una nutrice, disse: riformatevi rinnovando il vostro cuore per provare in voi quale sia la volontà di Dio, che è buona, gradita, perfetta. Allo stesso modo non dici: sia fatto l'uomo, bensì facciamo, e neppure secondo il genere, bensì a nostra immagine e somiglianza. Chi infatti è rinnovato nel cuore e capisce e contempla la tua verità non ha bisogno di qualcuno che gli insegni a imitare il proprio genere, ma grazie al tuo insegnamento capisce lui stesso quale sia la tua volontà, che è buona, gradita, perfetta, e tu gli insegni e lui è già in grado di vedere la Trinità dell'unità, ovvero l'unità della Trinità. È per questo che al plurale facciamo l'uomo segui il singolare: e Dio fece l'uomo. E al plurale, a nostra immagine, di nuovo il singolare, a immagine di Dio. Così l'uomo si rinnova nella conoscenza di Dio, secondo l'immagine di colui che lo ha creato, è divenuto spirituale, giudica tutto, vale a dire tutto quello che deve essere giudicato, ma da nessuno è giudicato. Grazie a te, Signore, Grazie a te vediamo il cielo e la terra, siano essi la parte corporea superiore e inferiore, ovvero la creazione spirituale corporea, ovvero la totalità della creazione. Vediamo la luce creata e separata dalle tenebre. Vediamo il firmamento del cielo. Vediamo la bellezza delle acque riunite nelle distese del mare. E la terra arida, sia informe sia formata, è resa visibile e ordinata, madre di erbe e di alberi. Vediamo illuminare e rifulgere sopra di noi, il sole bastare al giorno, la luna e le stelle consolare la notte, e tutti insieme segnare ed esprimere il tempo. Vediamo l'elemento umido fecondo dovunque di pesci e di mostri e di esseri alati, già che la densità dell'aria che sostiene il volo degli uccelli è consolidata dall'evaporazione delle acque. Vediamo la faccia della terra adornarsi di animali terrestri e l'uomo a tua immagine e somiglianza preposto a tutti gli animali irrazionali, proprio in virtù di tale immagine e somiglianza, cioè in forza della ragione e dell'intelligenza. E come nella sua anima c'è una facoltà che decide e comanda, un'altra che si sottomette e ubbidisce, così la donna è fatta anche fisicamente per l'uomo. Lei che pur possedendo nella mente pari natura di intelligenza razionale, nel sesso fisico è sottoposta a quello maschile, come l'impulso dell'azione è sottoposta all'intelligenza per concepirne un agire retto e vigile. Le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché le tue opere ti lodino. Hanno inizio e fine nel tempo, nascita e tramonto, progresso e regresso, bellezza e imperfezione. Hanno perciò di seguito un mattino e una sera, ora nascosti, ora evidenti. Dal nulla l'hai fatte, non da te, non da una materia non tua o comunque preesistente, bensì concreata, cioè da te creata insieme con esse, poiché hai dato forma alla loro assenza di forma senza alcun intervallo di tempo. Una cosa è infatti la materia del cielo e della terra, altra l'aspetto del cielo e della terra. La materia l'hai creata dal nulla totale, l'aspetto del mondo dalla materia informe, ma entrambe le cose simultaneamente, per modo che la forma succedesse alla materia senza il minimo interstizio di tempo. Abbiamo indagato con quale significato allegorico hai voluto che queste cose fossero fatte in quel certo ordine, ovvero in quel certo ordine fossero narrate. E abbiamo visto che sono singolarmente buone, tutte buone assai, e nel tuo verbo, nel tuo unico figlio, abbiamo visto il cielo e la terra, il capo e il corpo della Chiesa, predestinati prima di tutti i tempi, senza mattino e senza sera. Ma allorché prendesti a eseguire nel tempo le opere predestinate per manifestare i tuoi disegni nascosti e dare ordine al nostro disordine, poiché i nostri peccati erano su di noi e ci eravamo allontanati da te calandoci in una profondità tenebrosa, giustificasti gli empi e li separasti dai malvagi e affermassi l'autorità del tuo libro fra gli spiriti superiori che ti fossero sottomessi e gli inferiori che si sottomettessero a loro, e raccogliessi la società degli infedeli in un'unica società, perché si manifestasse lo zelo dei fedeli che ti fossero fecondi di opere di misericordia, fino a distribuire le ricchezze terrene ai poveri per acquistare quelle celesti. E allora accendessi alcuni lumi nel firmamento, i tuoi santi, che possedevano la parola della vita e brillavano di eccelsa autorità acquisita coi doni dello Spirito. Quindi, per ammaestrare le genti infedeli, producesti dalla materia corporea i sacramenti e i miracoli palesi e i suoni delle parole conformi al firmamento del tuo libro, e con essi benedicesti anche i fedeli. Quindi plasmasti l'anima vivente dei fedeli con le passioni ordinate dalla forza e dalla continenza, e con ciò rinnovasti a tua immagine e somiglianza la mente a te solo soggetta, e sottoponesti, come la donna all'uomo, l'attività razionale alla superiorità dell'intelletto, e volesti che a tutti i tuoi ministri, necessari a perfezionare i fedeli in questa vita, i fedeli stessi fornissero il necessario per la vita temporale, raccogliendone i frutti in futuro. Tutte queste cose vediamo, e sono buone assai, perché sei tu che le vedi in noi, tu che ci hai dato lo spirito con cui vederle e in esse amarti. Signore Dio, donaci la pace, poiché tutto ci hai donato, la pace del riposo, la pace del sabato, la pace senza sera. Infatti tutta questa stupenda armonia di cose buone assai, compiuto il suo ciclo, passerà, perché in esse sono stati fatti mattino e sera. Il settimo giorno, invece, è senza sera e non conosce tramonto, perché lo hai santificato per farlo durare in eterno, affinché il riposo del settimo giorno, dopo che tu hai compiuto le tue opere buone assai, pur rimanendo in riposo, ci venisse preannunciato dalla voce del tuo libro, che cioè noi pure, dopo aver compiuto le nostre opere buone assai, poiché tu ce le hai donate, nel sabato della vita eterna riposeremo in te. E anche tu allora riposerai in noi, allo stesso modo in cui ora operi in noi. E così quel riposo sarà tuo per mezzo nostro, allo stesso modo in cui queste opere sono tue per mezzo nostro. Le cose che hai fatto noi vediamo che sono, ma esse sono perché tu le vedi. E dal di fuori vediamo che sono, e dal di dentro che sono buone. Tu invece le hai viste fatte, quando hai visto che dovevano essere fatte. Noi, solo in un tempo successivo, siamo mossi a fare il bene, dopo che il nostro cuore ha concepito il tuo spirito. Prima eravamo mossi a fare il male, abbandonandoti. Tu invece, Dio solo e buono, mai cessasti di fare il bene. E alcune nostre opere sono buone, certamente per tuo dono, ma non eterne. Dopo di esse speriamo di poter riposare nella tua sublime santificazione. Tu invece, bene che non necessita di alcun bene, sei sempre il riposo, perché tu stesso sei il riposo. La comprensione di tutto questo, quale uomo può darla all'uomo? Quale angelo all'angelo? Quale angelo all'uomo? A te chiediamo, in te ricerchiamo, a te bussiamo. Così, così otterremo, così ci troveremo, così ci sarà aperto.